in primo piano. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Oggi la rassegna stampa si apre, non poteva essere diversamente, sul caso Englaro. È un diluvio di pagine da parte di tutti i quotidiani indistintamente su questa vicenda drammatica. E questo nonostante che il papà Englaro dica, chieda con forza silenzio su mia figlia, come titola in prima pagina La Repubblica, ma è come fermare il vento con le mani, spiega papà Englaro. Molti negano la realtà, io voglio solo liberare mia figlia. A pagina 3 di Repubblica l'intervista: non si fermi il dibattito, dice papà Englaro, della ragione, ma adesso chiedo il silenzio. Una richiesta che comincia un pochino anche a farsi strada nei media. Pagina 3 del Corriere della Sera, un titolino a mezza pagina: cresce il partito del silenzio. Il telegiornale di La 7 non è vermicino, ha annunciato ieri sera in apertura serale, scrive il Corriere della Sera, lo ricorda, non siamo a Vermicino, la località famosa per il fatto di cronaca, non c'è alcuna ultima disperata lotta per tirare fuori Alfredino dal pozzo. Ecco perché, secondo scienza e coscienza, decidiamo di staccare la spina dell'informazione. L'avvocato Vittorio Angiolini lo ha chiesto a nome della famiglia Englaro: si fermi il circo mediatico su quella che non è una festa di piazza, ma è come fermare il vento con le mani, ricordavo prima e adesso lo ripeto. Il Messaggero in prima pagina: Eluana, i giorni più lunghi, ultimo viaggio tra le polemiche. Il viaggio è quello che ha portato Eluana da Lecco a Udine, dove con ogni probabilità morirà nei prossimi giorni. Il padre: non si può essere condannati a vivere, nell'occhiello del Messaggero. Fini, presidente della Camera, rispettare la sua decisione. Il Vaticano: la uccidono. Napolitano: ora serve la legge sul testamento biologico. Il Giornale non ha dubbi. In prima pagina il titolo è: uccidono Eluana nel modo più atroce. La pagina 3 del Messaggero è invece dedicata a una testimonianza, quella del medico che staccherà il sondino che assicura l'alimentazione alla giovane Luana. Sono devastato, dice il professor De Monte, Amato De Monte, primario di anestesia in un famoso ospedale del Friuli Venezia Giulia. Dice però: Eluana non soffrirà. Il vescovo locale, ricorda il Messaggero, il vescovo di Udine, ha invitato però i fedeli alla mobilitazione. E Monsignor Fisichella, nella seconda metà della pagina del Messaggero, pagina 3, dice: speriamo di fermare questo processo verso la morte. È un paradosso terribile, aggiunge Monsignor Fisichella, mentre si toglie il sondino si danno farmaci contro il dolore. La testimonianza del medico, il Corriere della Sera lo definisce bocconiano con l'orecchino, è contenuta anche nell'intera pagina 3 del Corriere della Sera. Anche lì Amato Da Monte spiega: mi sento devastato come uomo, come padre e come cittadino. Aggiunge di farlo perché lo ha colpito il modo con cui papà Englaro esprime il suo perseverare nel cercare di esaudire la volontà della figlia, nel volerla liberare. Questa ragazza è morta 17 anni fa, dice l'anestesista Amato Da Monte. Mi sono trovato di fronte al padre, una persona diversa dall'immaginario che ognuno di noi si era creato. Una testimonianza di Umberto Veronesi a pagina 12 di Libero entra nel merito del caso Eluana. È davvero interessante. Veronesi è di quelli che non hanno dubbi. Staccherei anch'io il sondino a mio figlio. Se me lo chiedesse non esiterei, rispetto la Chiesa, ma la scienza dice che Eluana è già morto. Un paio di passaggi meritano di essere letti. La Chiesa fa il suo dovere, dice Veronesi, ed è giusto che sia così. Io rispetto la sua posizione, anche se sono di idee opposte. Essendo ateo, mi muovo in direzioni diverse e parto da principi diversi, per esempio quello di rispettare la volontà della persona, che è sacra. L'uomo ha tutto il diritto e deve averne anche la libertà di programmare una fine dignitosa qualora si trovasse in questo stato. Per me il rispetto della vita è questo, conclude Veronesi, non protrarre all'infinito una condizione senza speranze. Testimonianza sul caso Englaro, anche sull'Avvenire, dove la vedova Coletti, moglie di Giuseppe Coletta, vittima negli anni scorsi dell'attentato alla base italiana in Assiria, nel novembre del 2003 per la precisione, dopo la sua morte ha fondato un'associazione benefica, conosce bene papà Englaro e racconta la sua testimonianza e anche quella della Eluana. È una donna di 38 anni, dice, la mia stessa età, apre gli occhi di giorno e li chiude di notte, respira benissimo, serenamente. Ci sono momenti nei quali forse sorride. Quanti sanno che non è attaccata a nessuna macchina, che non ha una piaga da decubito, che in 17 anni non ha preso un antibiotico. Insomma, la morte di Eluana alla vedova Coletta proprio non va giù. Le sei bugie del caso Englaro sono poi ricapitolate e spiegate a pagina 8 e 9 di un servizio sull'Unità. Confusione ce n'è tanta, è il presupposto di questo servizio. L'Unità cerca di rispondere ad alcune domande che un po' tutti si fanno, per esempio se Eluana soffrirà, se potrebbe risvegliarsi, se morirà di sete, se è un omicidio oppure no. Una testimonianza di grande interesse è anche quello del filosofo Vattino, che a partire dalla prima pagina del Corriere racconta la sua esperienza, cioè la storia di Sergio. Era il suo compagno, era incurabile, è scritto nell'occhiello del Corriere della Sera, a pagina 5, stavamo andando insieme in una clinica in Olanda, lo stavo accompagnando in aereo. Dice Vattino, lo ricorda, il mio compagno voleva farla finita, ma mi ritengo fortunato, morì in viaggio tra le mie braccia, e lo ricorderò così per sempre. L'altro argomento che tiene banco oggi un po' sui giornali è l'approvazione della soglia del 4% per la partecipazione alle elezioni, per la elezione di rappresentanti alle europee in arrivo. Liberazione di Rifondazione Comunista, non ho dubbi, in prima pagina titola partita truccata, scacco alla democrazia. La Camera approva il partito Berlusconi-Veltroni che esclude dal Parlamento le forze che non raccolgono il 4% dei voti. Poi all'interno un siparietto, un piccolo giallo che vede protagonista Walter Veltroni. Il giallo è parte da una sua affermazione. Fu Giordano a chiedermi di introdurre la soglia del 4%. Giordano all'epoca era il segretario proprio di Rifondazione Comunista, ma ricorda Liberazione, l'ex segretario di Rifondazione Comunista, lo stesso Giordano, smentisce. Quando si parla con Veltroni, dice, è sempre consigliabile avere dei testimoni, che fortunatamente nel colloquio a cui allude il segretario del Partito Democratico oggi c'erano. Prima pagina diversa per il secolo XIX di Genova, che ricorda come una piccola inchiesta che viene fatta sulla Liguria e sul numero degli iscritti al Partito Democratico della regione. Tempi duri per il PD anche in Liguria, scrive il secolo XIX. Il tesseramento segna il passo, 9.000 iscritti contro gli oltre 21.000 che DS e Margherita sommavano prima della fusione. Insomma, qualche prezzo Veltroni lo sta pagando un po' in tutto il paese. La prima pagina del Sole 24 Ore, le notizie dal mondo dell'economia tengono banco. L'Europa minaccia ritorsioni contro il protezionismo americano, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, verso un ricorso dell'Unione Europea contro il Buy American, il comprare americano, annunciato da Obama, che però aggiunge il Sole 24 Ore, smorza i toni. L'Unione Europea minaccia di aprire un contenzioso commerciale con gli Stati Uniti, è l'attacco dell'articolo del Sole 24 Ore. Se nel piano di aiuti in discussione al Senato americano sarà mantenuta la clausola protezionista Buy American, secondo cui l'erogazione dei fondi è legato all'utilizzo di prodotti americani. Sullo stesso terreno, pagina 10 del Corriere della Sera, viene sintetizzata la risposta francese. La spinta di Sarkozy è il titolo dell'intera pagina. Comprate francese. Questa la risposta. Gli aiuti all'industria automobilistica francese ci saranno soltanto se le aziende produttrici di auto utilizzeranno componentistica francese. Insomma, un botta e risposta che rischia di lasciare il segno. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, un servizio che annuncia come la luna di miele tra il presidente Obama e la stampa ex amica rischia di essere finito. Intanto il presidente perde altri due ministri. Un servizio del Sole 24 Ore spiega bene il perché e il per come, grazie agli articoli di Mario Platero e di Marco Valsania da New York. I due pezzi che perde il governo Obama sono il ministro della Sanità, che di recente è risultato come non abbia pagato al fisco $140,000 per le tasse evase nel periodo 2005-2007, e la responsabile del budget della spesa pubblica. Anche lei ha annunciato ieri le dimissioni dall'incarico perché, spiega il Sole 24 Ore, è emerso che non ha pagato i contributi per le collaboratrici domestiche. Interessante anche l'editoriale della prima pagina del Sole 24 Ore, lo firma Innocenzo Cipolletta, ex direttore della Confindustria. Sostegno dei redditi, primo test federalista. Nell'attacco è spiegato il senso dell'articolo. La politica economica può fare ben poco per arginare l'attuale calo della produzione generato da aspettative di crisi. La recessione attuale sta seguendo grosso modo l'andamento messo in luce dalla precedente crisi globale, quella del petrolio, che generò una recessione negli anni 74-75. Questo calo è stato determinato dal brusco invertirsi delle aspettative, scrive Cipolletta. Le imprese hanno ritardato i programmi di investimento e hanno compresso le scorte. Lo stesso hanno fatto le famiglie, rinviando l'acquisto di beni durevoli. Questa parte della recessione non è contrastabile, ma attenzione, spiega Cipolletta, dopo questa prima ondata di recessione rischia di presentarsi una seconda ondata generata dalla perdita di reddito di quanti hanno perso il lavoro a causa della crisi. Bene, questa seconda ondata è ben più pericolosa, questo è il grido d'allarme, è questa che può innescare una vera spirale recessiva, ed è qui che deve intervenire la politica, per esempio, chiede Cipolletta, attraverso gli ammortizzatori sociali che dovrebbero essere decisi prevalentemente dagli enti locali. Sempre dal mondo della politica, un intervento di Silvio Berlusconi, del Premier, un po' su tutti i giornali. Il giornale del gruppo Berlusconi stesso titola Il cavaliere in campo e ricorda la definizione data ieri da Berlusconi di Soru, il rivale del Partito delle Libertà alle scadenze elettorali in Sardegna, lo definisce un incantatore che ha fallito in tutto. Berlusconi, insomma, boccia il candidato del PD in Sardegna. Non può guidare la Sardegna, spiega Berlusconi, chi non ha saputo far funzionare le sue aziende. La stampa sintetizza le posizioni del cavaliere con un titolo secco: torna il cavaliere decisionista e avverte gli alleati, se segate me, segate il ramo dove sedete. A proposito del ramo dove siede Berlusconi, Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, annuncia che l'impero si allarga, Silvio fa una nuova TV, lo fa Mediaset, Rai insieme con Telecom, che hanno deciso un'alleanza per creare da giugno una emittente satellitare alternativa a Sky. Se ne parla ancora poco, scrive Vittorio Feltri nell'editoriale di Prima Pagina, ma il progetto va avanti veloce. A giugno nascerà una nuova grande televisione destinata ad inasprire la concorrenza a Sky. Davvero interessante l'argomento, approfondito poi a pagina 2 e 3 del quotidiano Libero. Una piccola parentesi su argomenti del tutto diversa si può aprire grazie a pagina 25, un'inchiesta del Corriere della Sera su Facebook. Grazie al social network, titola il Corriere della Sera, si riallacciano rapporti con i vecchi amori, danno sicurezza a una generazione precaria. Retrosexual a caccia dell'ex su Facebook, ma l'esperta avverte: attenti alle minestre riscaldate, nascono sempre un po' per disperazione. La svolta del Pentagono è annunciata invece dalla stampa, che un servizio retroscena dagli Stati Uniti spiega come esista un rapporto riservato dei militari americani al presidente Obama che chiede una svolta. Aperte virgolette, attaccare in Pakistan, chiuse virgolette, e farlo subito, chiedono i militari al presidente Obama. Chissà cosa risponderà. In attesa di saperlo, il sempre Libero annuncia una piccola inchiesta sul ceto medio. È sparito il ceto medio, titola pagina 16, i borghesi tornano operai. Ma nel mondo dell'economia c'è anche posto per le aziende che fortunatamente continuano a investire e trovare e a generare posti di lavoro. Il Giorno del Quotidiano Nazionale ne dà atto con un servizio annunciato in prima pagina. Avanti c'è posto. Ecco l'altra faccia della crisi, quello delle aziende Made in Italy in controtendenza che continuano a produrre posti di lavoro. Dal mondo dello sport, un'intervista a Moratti, il presidente dell'Inter. Anche Moratti scende in campo e spiega perché sto con Mourinho, titolo a prima pagina della Gazzetta dello Sport. Qualcuno ne dubitava, ma il Moratti pensiero non lascia dubbi. Tra noi il rapporto è saldissimo, mi piace sempre di più. Anzi, dice Moratti, vi spiego perché Mourinho mi ha stregato. Certamente la lettura di questa intervista è di grande interesse. L'amministratore delegato del Milan, Galliani, risponde su Repubblica. Beckham è indispensabile, dice, ma che posso fare? Non è così facile. Aperte virgolette, non posso certo rapirlo. Chiude virgolette, sostiene Galliani. La fine dell'amore tra il ministro degli esteri Frattini e Chantal, un sogno d'amore cominciato 9 mesi fa e già finito, è raccontato in una pagina del Resto del Carlino, della Nazione e anche del Giorno, i tre quotidiani che fanno parte del Quotidiano Nazionale. Tra Frattini e Chantal il sogno d'amore è già finito, giallo sull'SMS di Addios. Sul fronte delle interviste, Passera sul Corriere della Sera dice sì ai Tremonti Bond, mentre Angelo Rovati, consulente di Rothschild, ex consigliere economico del governo Prodi, in una bellissima intervista di Paolo Madron che apre Finanze e Mercati del Sole 24 Ore, annuncia il destino di Telecom, scorporo e fusione con Mediaset. L'apertura di Economia e Imprese del Sole 24 Ore, la parte dedicata al mondo delle aziende, torna invece sul tema della crisi e dà un'altra notizia certamente negativa e certamente drammatica per il distretto del Piemonte. Indesit chiude la fabbrica torinese, 600 gli addetti a casa, la produzione di lavastoviglie sarà concentrata in Polonia. Chiudiamo con una inchiesta speciale della stampa che riporta quanto scritto dall'Independent: l'utopia di Wikipedia uccisa dagli utenti, ormai è inattendibile. Wikipedia, con 10 milioni di voci e 250 edizioni locali, è ancora l'enciclopedia più grande del mondo, ma è sommersa dalle polemiche sulla inattendibilità delle fonti. Bene, si conclude qui la rassegna stampa di questa mattina. L'appuntamento è per domani alle 7:30.